Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Pronti? Via! Eccomi qua, la vostra salutare ossessione quotidiana. Come state? 349-238-6666, ditelo alla Nico, lasciate il vostro messaggio vocale. Siete in forma, in forza, oppure siete un po' acciaccatini come me? A me ogni tanto capita al mattino il dolorino di qua, il ginocchietto che fa male, un po' mi sento un po' arrugginita, ma... saranno gli anni, saranno le primavere, sarà l'umidità, sarà che ho esagerato un po' con la palestra, faccio finta di niente, intanto poi passa. Ma giro tutte queste domande al professor Angelo Manfredi, immunologo e reumatologo al San Raffaele di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Beh, un po' di dolorini li mettiamo in conto, un po' a tutte le età. Assolutamente, assolutamente. Non è sempre colpa degli anni. Non è sempre colpa degli anni, no, assolutamente. Già lei mi è simpatico. Più che altro è l'età che ci aiuta a vedere, ad avere una certa prospettiva diversa. Bravo. Non la sua, ma la mia, perché lei è ancora una dilettante, assolutamente. Professore, ma cambia se ho un dolorino localizzato? Parliamo di dolori che poi nel corso della giornata passano, magari anche nel giro di qualche minuto. Cambia se è localizzato oppure se ho quella sensazione di essere un po' tutto rotto, come quando andiamo in palestra, esageriamo un po' con gli allenamenti o andiamo a fare la passeggiata in montagna e lunedì ci sentiamo stesi e diciamo: ma chi me l'ha fatto fare? Non c'ho un centimetro. Ecco, che differenza Io credo che bisogna considerare sempre che il dolore ci parla in qualche modo, parla un linguaggio un po' semplice per certi versi, ma che è utile ascoltare. In generale i dolori localizzati sono dolori che ci dicono qualcosa su qualche cosa che sta succedendo in un punto specifico del nostro sistema. Spesso questi sono dolori che si chiamano osteoarticolari o osteomuscolari, ci dicono magari che per una serie di motivi possiamo aver fatto un movimento sbagliato, possiamo aver caricato eccessivamente su un tendine, o può esserci un qualche problema anatomico locale che fa sì che una determinata parte del nostro sistema sia troppo sollecitata. In generale, ripeto, teniamo presente che queste sono cose che hanno una loro funzione, perché questo segnale ci dice di fermarci in qualche modo. Se io ho un problema a livello della cuffia dei rotatori, avverto un dolore a fare un certo tipo di movimento in cui sollecito un tendine che magari è in quel momento compromesso, questo magari evita che questa iniziale rottura del tendine peggiori. Non so come certo. Dire. In generale il dolore acuto serve per portarci a evitare delle cose. Se il dolore è un dolore un po' come quello che lei accennava, che va e viene e va, diciamo, ma non ha una... non si affeziona. Bravo, così, non si affeziona, noi ce le dimentichiamo. Tutto sommato, diciamo, vuol dire che non c'è. Se però ci sono molti doloretti che non si affezionano, ma che passano da una parte all'altra, magari questo può farci pensare che il nostro stile di vita non è proprio... perfetto, questo anche un pochettino a qualsiasi età, nel senso che questi dolori spesso possono essere legati a, dicevamo, a tendini, a strutture, molto spesso sono anche proprio legate alle contratture muscolari, che sono un po' il sistema con cui il nostro organismo si difende dal dolore. Noi prendiamo queste che si chiamano posizioni antalgiche, la posizione antalgica è una posizione che noi tendiamo a prendere per evitare inizialmente di sentire dolore. Certo. Spesso però questa cosa può creare una specie di circolo, perché nella posizione antalgica mantenuta a lungo il muscolo si contrae, va incontro a una contrattura che a sua volta è dolorosa, la posizione peggiora, la postura peggiora e questo non va bene, e questo magari richiede, invece dello star fermo, dicevamo, di questo comportamento dell'evitare, insomma, magari invece richiede di fare un pochettino più attenzione a tenere il muscolo non contratto, a fare un esercizio che sia un esercizio adeguato, ha una qualità ragionevole del sonno, a che tipo di materasso stiamo utilizzando, ha tutta una serie di modalità. Ecco, che... perché lo stile di vita pesa sulla salute delle nostre articolazioni e anche contribuisce ad aumentare o a spegnere il nostro dolore. Ad esempio, professore, abbiamo parlato in tante occasioni di microbiota. Bene, il microbiota ha a che fare anche con i nostri acciacchini quotidiani, intesi come dolori articolari. In che modo e perché, professore? Ma sapete, microbiota, qualcuno dice che l'intestino è il terzo cervello, no? Microbiota, ricordiamoci che parliamo di un oggetto reale, si dice un chilo e mezzo di batteri. Se noi pensiamo a un chilo e mezzo, consideriamo che è qualcosa che si vede, ecco come... Il problema è che questo chilo e mezzo di batteri in realtà è un mondo organizzato, nel senso che abbiamo tanti tipi di batteri diversi e che l'equilibrio tra questi vari tipi di batteri è straordinariamente importante. Questi batteri sono utili, sono dei commensali, ma c'è anche alcune forme di simbiosi, sono importanti per il nostro, cioè non è che noi vogliamo tirarli via, non so come dire. Noi ci siamo adattati reciprocamente, però ricordiamoci che sempre batteri sono. Noi abbiamo un sistema, il nostro sistema immunitario, una serie di localizzazioni intestinali che questi batteri continuano a controllare in qualche modo, e componenti di questi batteri continuamente vengono filtrati attraverso l'intestino, arrivano al fegato e possono passare in circolo. Il problema è che questi batteri mangiano quello che mangiamo noi. Scusate, magari l'argomento è un po' poco adatto. Anzi, intanto che fate colazione, pensate di dare un po' di colazione anche ai vostri batteri. Insomma, il microbiota è lì, dice: mangio anch'io. Mettiamola così, in tutto questo. Esistono una serie di dimostrazioni con dei studi, anche alcuni molto eleganti, che ci dicono che se noi diamo alcuni tipi di nutrimenti, ad esempio eccediamo negli zuccheri semplici, eccediamo in alcuni tipi di grasse, questo fa sì che il materiale che non viene assorbito in qualche modo, in generale le caratteristiche del nutrimento che va a questo microbiota cambi, e quindi che ci siano delle espansioni di alcuni gruppi di batteri all'interno di questi, che rispetto alzano un po' ad la cresta, come dire. Alzano la cresta e aumentano questo stato di subinfiammazione. Quindi zuccheri e grassi. In generale. Questo non vuol dire di eliminarli, perché sappiamo che i grassi servono, ci sono le vitamine liposolubili, lo zuccheri, ci sono non solamente lo zucchero che aggiungiamo, ma i carboidrati, che sono zuccheri complessi, ma... Ricordiamoci che poi noi siamo onnivori in qualche modo, quindi... Detto questo, c'è una relazione, grosso interesse sulla dieta antinfiammatoria che sta venendo in qualche modo portata molto dai nutrizionisti, ma che ha sicuramente una sua logica, nel senso che nel momento in cui noi riduciamo l'apporto, mangiamo un pochettino come, anche un po' come si usava a mangiare. Certo, la nostra dieta mediterranea, no? Noi possiamo dire: spegni l'infiammazione, accendi la salute, se volessimo creare uno slogan. Assolutamente. Questa è senz'altro una cosa che, diciamo, non fa passare i dolori, però aiuta a gestirci un pochettino meglio. Lei prima citava dolorini, doloretti. Teniamo presente che nella larga maggioranza dei casi uno stile di vita ragionevole, lavorare sui muscoli, ricordiamoci che noi siamo fatti per essere mossi e noi facciamo tutti una vita più sedentaria di quella che dovremmo. Questo da una parte non aiuta il cervello a capire cosa succede e dall'altra fa sì che i muscoli perdono in termini di qualità, diciamo. Dall'altra però ricordiamoci che in certe situazioni invece il dolore o la rigidità la mattina, se sono molto prolungati, se sono molto importanti, se si continuano a manifestare, diciamo, se non sono l'accidente che citava, sono andato in palestra, ho strapazzato il sistema, ma se a prescindere da una causa scatenante, diciamo, diventano una compagnia quotidiana, qua forse un pochettino più di attenzione può valere la pena di farla, perché questa non è la normalità. In questo caso ci sono magari rivolgersi al proprio medico, parlare un secondo, ci sono degli esami che possono rivelare se c'è dell'infiammazione, ci sono degli esami anche di imaging che possono dirci che cosa sta un pochettino succedendo. Cioè, può essere comunque anche qua, ricordiamoci che il dolore è un segnale d'allarme, se, ripeto, diventa una parte cospicua della giornata, diventa un compagno troppo affezionato, va identificato. Vale la pena di pensarci. Cioè, questo è un livello d'allerta superiore che vale la pena di inserire. Professor Manfredi, abbiamo sottolineato il ruolo dello stile di vita, dell'alimentazione. Parliamo anche di fumo. È importante perché noi sappiamo, conosciamo bene quali sono i danni di questa dipendenza, perché di dipendenza dobbiamo parlare, ma vogliamo oggi dire che è importante pensare che il fumo può danneggiare anche le nostre articolazioni, insomma è davvero un problema importante. Quindi diciamo, il fumo, come lei accennava, è una pessima abitudine da cui ci si può liberare. Insomma, questo è un altro... fatica, si fa non fatica, è facile, ma... Non è facile, ma si può fare. Ma si può Io fare. Ho smesso. Ecco. Forza di dire ai pazienti di smettere di fumare, ho Vede? Smesso anche. Ecco. Con un po' di fortuna, questo, guardate, non vorrei dare a chi lavora stesso quanto dolorosa e faticosa può essere la cosa, quindi tutto quello che posso dire continuiamo a provare perché è importante. Faticosa e dolorosa, ma vantaggiosa. Ma vantaggiosa. Oggi vado di rima. Vale assolutamente. Il problema è il fumo danneggia e cambia un pochettino le cellule dell'apparato respiratorio. Sì. Uno dei cambiamenti è questo di citrullinare, come si dice, cioè di modificare alcune proteine. Queste proteine, ad esempio, sono riconosciute in maniera importante in pazienti che abbiano artrite reumatoide. Nei pazienti con artrite reumatoide, anticorpi anticitrullina sono frequenti ed è chiaramente dimostrato quanto il fumo, anche in quantità ridotte, peggiori la prognosi dei pazienti. Anche lì è inutile che noi ci danniamo a dare farmaci che sono spesso anche gravati da effetti collaterali, se poi facciamo il lavoro opposto invece spingendo la risposta autoimmune. Questo è un esempio, ma ce ne sono altri. Professore, proprio come ultimo messaggio, possiamo dire ai male, ma fatti una bella dormita. Professore, perché come anche la qualità, non la quantità, ma la qualità del sonno può essere un fattore protettivo e preventivo dei dolori articolari? Ma la qualità del sonno è fondamentale per tante cose. È fondamentale e è una cosa che dovremmo tutti cercare di difendere di più. Questo va sia persone più diversamente giovani sia sì. I giovani che hanno tante cose da fare e spesso a questa cosa non danno peso. Ricordiamoci che durante il sonno il nostro cervello continua a rielaborare le informazioni che ha accumulato durante la giornata. Questo è un lavoro di pulizia, diciamo, che è fondamentale perché poi il nostro sistema funzioni bene durante la giornata. Esistono molte condizioni in cui il paziente, ad esempio, abbiano delle malattie che interferiscono col sonno, che si complicano con un dolore cronico. Questo dolore cronico non dipende tanto dal fatto che la malattia causi direttamente il dolore, ma dal fatto che la malattia interferisce col sonno e la cattiva qualità del sonno a sua volta si traduce nel fatto che poi il paziente non riesca a gestire bene il dolore. Questo è un problema che, diciamo, la punta estrema è quello dei pazienti che abbiano sindrome di tipo fibromialgico, in cui la qualità del sonno sicuramente è un po' alla base delle problematiche, certo, anche spesso molto limitanti, questi pazienti abbiano, ma è anche un po' un consiglio che facciamo a tutti quanti a prescindere dalla malattia, insomma, ecco. Difendiamo il nostro sonno. Grazie, grazie al professor Manfredi, immunologo e reumatologo del San Raffaele di Milano, per essere venuto a prendere il primo caffè della mattina con noi. Grazie e buona giornata. Grazie di cuore.